c'era Maglioni che stava andando in moto, andava velocissimo. Ma non è possibile, ma senti, gli hanno messo un cavo elettrico, ma lui stava andando velocissimo, ma la lingua penzolava, dai, su ragazzi, ne faccio una mossa e non ci voglio perdere il punto di vista boiata.